Letture di Radio 24. Tori Hayden è un'insegnante e psicologa americana che da molti anni si occupa di bambini difficili. Da questa esperienza sono nati 8 libri di successo, come Figli di nessuno o Una bambina. Partendo dalle storie raccontate nei suoi libri, la Hayden ora ha pubblicato, assieme a Michael Marlowe, un manuale di formazione rivolto agli insegnanti delle classi speciali. Talvolta i bambini disturbati si isolano intenzionalmente dagli altri per rendersi davvero insopportabili. Secondo William Morse, che ha dedicato 60 anni all'educazione e al trattamento dei ragazzi disturbati, per stabilire una relazione con i bambini difficili da amare, due elementi essenziali sono l'accettazione differenziale e l'empatia. L'accettazione differenziale è l'abilità degli insegnanti di essere bersagli di odio, aggressione e ostilità, senza rendere pan per focaccia ai bambini che mostrano questi sentimenti. Questi comportamenti dovrebbero essere accettati per quello che sono, espressioni di dolore e tormento per i molti colpi inflitti loro in precedenza. L'empatia è il processo che usiamo per arrivare al mondo interno del bambino. L'empatia consiste in uno sforzo di sentire e capire il punto di vista dei bambini. Che cosa stanno pensando e sentendo? E perché stanno facendo quello che stanno facendo? In Figli di nessuno, Tommaso arriva nella classe di Torrey il primo giorno carico di rabbia. Inveisce e minaccia. Quindi si scatena, lancia una sedia verso la gabbia dei cardellini, scaraventa i libri giù dagli scaffali, spazza la cattedra di Torrey con una bracciata, strappa in quattro il quaderno di Lori e ne lancia i pezzi in aria come coriandoli. Tommaso si fermò e si girò di nuovo a guardarmi. Ecco. Adesso mi odi, vero? Non che ti sia particolarmente grata per quello che hai fatto, se è questo che intendi, replicai. Ma non ti odio e non mi va molto che tu ti dia tanto da fare per farti odiare. Tommaso si aspetta che Torrey lo respinga per tutto quello che ha fatto di provocatorio. In un momento successivo, Torrey bloccherà il suo comportamento in quel preciso istante. Ora però ritiene che sia più importante guadagnar terreno con Tommaso, così non gli impedisce di crearle dei guai. Il suo obiettivo principale è quello di stabilire una relazione. Fritz Redl e David Wineman, che hanno scritto il famoso volume Bambini che odiano, affermano che i bambini devono ricevere amore e affetto in abbondanza, che lo meritino o meno. L'amore e l'affetto non possono essere usati come mezzi di scambio per ottenere la necessaria motivazione sul piano educativo e neppure su quello terapeutico. I bambini di Torrey ricevono sostegno e affetto in abbondanza senza tener conto del fatto che li meritino o meno. L'attenzione gratuita è un dono. Non importa quanto un bambino cerchi di rendersi sgradevole. Le relazioni umane sono difficili, ma l'affetto non dovrebbe mai essere usato come moneta di scambio. Togliere l'amore garantisce forse un controllo a breve termine, ma per molti bambini disturbati, l'amore e l'appartenenza sono il bisogno primario insoddisfatto. Era difficile sostenere i continui tentativi di Tommaso di mettere alla prova il mio grado di sopportazione, ma questo non era niente in confronto a certi altri suoi comportamenti. Una delle sue armi più efficaci era la capacità che aveva di fare scoregge. Avevo l'impressione che potesse farlo tutte le volte che voleva e a qualsiasi volume. Si alzava su una natica e mirava il bersaglio, così che la sua vittima beneficiava fino in fondo dell'odore e del rumore. «Devono essere i fagioli», diceva sempre dolcemente. Facevo di tutto per ignorare la cosa. Per quel genere di comportamento, la tecnica più sicura era quella di ostentare disinteresse. La grande sfida di Torrey è quella di aiutare i suoi bambini a costruire un nuovo genere di relazioni con un adulto che sia affidabile nel fornire sostegno, comprensione e affetto. Torrey si guadagna la fiducia dei suoi bambini dimostrando loro in che modo si comporta un adulto competente, in che modo un adulto competente si rapporta agli altri e in che modo un adulto competente reagisce alle situazioni negative. Fornisce un esempio di franchezza e onestà. È coerente e rispettosa nelle sue azioni, riconosce i suoi sentimenti, non cerca di mantenere una facciata e, cosa più importante, ascolta i suoi bambini. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del libro di Tori Hayden e Michael Marlowe, I bambini di Tori Hayden, l'esperienza e gli insegnamenti della maestra dei casi difficili. Corbaccio, 336 pagine, 19,90 euro.